Allora sono più vicino io, qua arrivano per 20 abbondanti. A te Gianni? Superano 2-3. E allora dalla donna tua questo. Vai, vabbè, vai. Se si vuole giocare che si giochi. Io mi ritiro per deliberare. Ciao ragazzi, divertitevi. Ah ok, che cazzo te ne frega, rimaniamo, siamo noi, poi ci spostiamo dalle solite cose, come ieri. Sì, vabbè, ma no, non mi piace a me stare così. Non è che non sto uscendo, lo vado a puzza. Vabbè, dai, comunque a Claudio non le fa niente, a Gian non le fa niente, a te non ti fa niente, quindi per me può continuare a fare quello che vuole fare. Avanti, Claudio. Sì, si può essere parvero. Sì, no, ma tanto se non ce lo schiacciamo, cosa ce ne frega? Capito, lascialo continuare pure, tanto noi siamo più potenti di lui. Aumentando il segnale, comunque tu passi Claudio e Munoz, però come aumentato ti dà un po' di disturbo questo fischio. Comunque puoi continuare a parlare, ti ascolto comunque. Beh, Carlo mi arriva a bomba, arriva molto forte, dai, proprio tutti con perché mi arriva a 9+30, cavolo, è una buona posizione anche di carica. Fa niente, infatti Roberto stava parlando, però tu arrivi più forte di Roberto. Vediamo Gianni se riesce a passare da Roberto qua sicuramente. Vai già. Oh, non lo so adesso se passo. Guarda Roma se passa. No, tu passavi comunque, tu superi il 9.25, adesso c'è 9.35, scusate di nuovo. Ma sono gli antivolti bene appigliati l'ambulanza a te, boh. No, già qua crepi. Crepi il grillo, sei 9+30, guarda attacchi, no, non ti preoccupare, lui è 9+10, quindi non ve ne dà fastidio, riprendi. Io vabbè no, ma magari qualcuno che non esce, perché esce con questo fischio strano? Sì, già, ma lo fa apposta, non è che non esce, lo fa apposta, capito perché... Attivamente a segnale, è un segnale che conosco, ma non mi esprimono, me ne fottinuta. Avanti già, che Roberto è al telefono. Ehi, a uno se me l'ha coperto, non ho sentito cosa ha detto. Avanti di nuovo, che da Ruggini. Vai, Cla. Aspetta che Claudio adesso passa all'altra postazione, così mi faccio lo Smith. Arrivi 9+60. Non so già se a me mi copre, dimmelo, io me ne vado in altre frequenze, no, ho tempo da perdere. Ciao, Barbiero, ma sono meglio qua un segnale, guarda. Claudio, te andate, devo dire cosa. Se passa, se lo aumento, vediamo se posso... Gianni. Claudio torna in conto, lo passa a canale 12. Da Gianni doppio lume non passi, qua non c'è bisogno di attaccare niente, Claudio, perché ti ho detto sei 9+40, quindi non ti preoccupare, da Gianni doppio lume ti dà fastidio, ok? Mi sposto un attimo, vediamo cosa vuole Roberto e dopodiché vi saluto perché a me stare così in radio, uno entra per distrarsi e c'è sempre il solito imbecille di turno. Tanto guarda, il tuo segnale è sempre quello, che ne dicano, ma sempre quello è. Continua a divertirti, continua a disturbare la gente. Ciao ragazzi, a frappè, ci sentiamo. Saluta a Babbo, a mamma e a Ottavio Claudio. Ciao ciao. Ciao Palmiero, dai, mi ha fatto piacere. Sì, mi allontano anch'io, dai, che ci sentiamo alle prossime, tanto non famo durare quando è così e probabilmente c'è anche molta gente invidiosa che fa queste cose. E noi ce ne freghiamo, tiriamo avanti. Ho visto che quando stavo mettendo la portante ci ha abbassato un segnale, Santiago 5, oltre che pochi finali, ecco, se continui così. Che dire, guarda, ti auguro una buona serata anche a te, vattene a fanculo, capito, e poi se ti puoi divertire, divirti, che a me non me ne frega un cazzo, perché tanto non mi rappresenti un cazzo, a me perché sono molto, ma molto più potente di te, sei così piccolino, ti schiaccio con... Claudio, andiamo sui canali di sotto. Ais è più contento, non parla nessuno, così è felice. Dimmi Mirko, sì, il 113 è quello buono, ma poi la media globe c'ha capi buoni, capito? E quindi va bene. L'H155 è superiore al 213, è un buonissimo cavo. L'ho mandato qua. Eh sì, perché è un cavo che non è molto schermato, capito? Quindi secondo dove lo metti, come dicevo Gianni, può anche andare bene, ma se tu magari lì in campagna hai bisogno di un cavo schermato, un cavo che è superiore al RG58, capito Mirko? Tutto qua. Ti lascio in compagnia di Roberto un attimo, che io devo andare a fare una telefonata, ok? Mirko, quanto ti sta arrivando di Alghero? Attento Mirko, ho detto me lo dà un rapporto di segnale lì ad Alghero che sto provando una nuova antenna. KK Mirko, ti ringrazio, stavo provando, adesso provo ad attaccare un Alfa Lima, vediamo un po' come ti arriva. Guarda, la seconda prova è questa, dammelo adesso segnale come arrivo. Va bene così allora, dai. Oh, qua sei salito 9.35 e oltre, qua. Già. E dai, solo un secondo per vedere come va. Già va bene allora, dai. Già va bene. A voi. Cava gara. E vabbè, adesso sto facendo con 5 fatte. Se poi attacco l'altro, il Cobra, con quello lì sicuramente arrivo più forte se da attaccare lui. Mirko, tu cosa stai utilizzando? Sempre il 3009? Ma il 3009 c'ha sempre questi difetti di segnale, di coso. Il mio è molto avaro come segnale. Ma no, io l'ho comprato proprio nuovo. L'ho comprato da poco. Dai, ce l'avrò un annetto, però l'ho usato pochissimo. Non lo so. Dovrebbe essere no. Dovrebbe essere circuito PRL. Scusate, ho ricevuto una telefonata e non ho sentito il discorso. Mirko, stavi dicendo? K. Quando ti arrivo io col 3009, quello 3009, 6009 c'ha l'indicatore a LED o a lancetta? Quanto ne accendo di lampadina? E Pietro c'era con l'amico radioamatore, quello Pietro di Alghero, però dice che era dentro casa con l'antennino, buh, non lo so. Comunque arrivava a 7 qua lui, e a te come ti arriva lui? Ok, qua che è rimasto, muro tu c'è ancora, non ti preoccupare, cioè se ti arrabbi è peggio, io faccio il gioco proprio, quello è totale. Tante volte fregatevi, poi quando ti stufi ti spegni e te ne vado a fare altre cose, ma non bisogna arrabbiarsi per le radio, io l'ho sempre detto, è un divertimento, deve essere visto come divertimento. Certo, se io sto lavorando, lo uso per lavoro la radio e mi serve per lavorare, a quel punto faccio denunce, querele, quelle, ma qua se c'è qualche persona che si diverte così lasciamolo divertire. Ti sei abbassato di segnale comunque Claudio adesso? Ci sono anch'io che in due. C'è anche Mirko di Alghero, ma perché ti stai preoccupando? Ti stai andando per niente, ho detto non ti preoccupare, stai tranquillo, scusatemi di nuovo il telefono, che chiude il telefono. Attenzione l'amico di Alghero, ho cambiato apparecchio, adesso sono con il Cobra, come ti sta arrivando? KK, e da te Muros come ti arrivo? KK, e questo qui è il Cobra, sto usando, lo sto usando senza nulla, è normale. E andiamo e andiamo. No, no, io non ho toccato lì. Qua è tutto sotto controllo, è sempre ferma la lancetta sui watt e tutto qua. Ehi allora, ciao già, ciao Claudio, salutoni. Non so se mi ascolti, boh, avanti. Luca, è successo qualcosa? Ehi, già, solo un attimo. Ah, pensavo che si fosse staccato il piede. Pappa. Allora, Alghero, la modulazione è aumentata quindi con questo apparecchio. Questo qui è un microfono autocostruito. Anche io, no, vabbè, l'originale di questo video non me l'hanno mai dato perché questo apparecchio l'ho preso a seconda mano. Quindi ho voluto abbinarmi un microfono, diciamo che ha capsula di un microfono, circuito di un altro, eccetera eccetera. Abbiamo fatto un microfono, dai, da tanti pezzi che ci avevo. Claudio, l'hai sentito? No, stavo ascoltando dei messaggi già su WhatsApp. Sì, sta, poi vabbè, ti avevo salutato, ti ho detto che gli arrivi con Santiago 4 tutto. Bene, avanti a chi tocca. Sono rientrato io. Ti prendilo. Sì, amico Pucina, che c'ha una radio più evoluta, diciamo, un pochettino più performante. L'altro giorno, io vabbè, qua arriva quasi 9:10, ma con l'altra radio arriva bomboletta. Io con questo apparecchio, col Cobra, che è liscio e non sto usando nulla, quanto ti arrivo, Roberto? Con i picchi sei quasi 9:30. Questa radio è una bomba. Roberto, c'hai la modulazione un po' più. L'ho girato dall'altra parte, adesso com'è? Adesso è perfetta, tu sei tu, chiaro chiaro, 9:25, il segnale, vabbè, si è andato benissimo, mi sono anche collegato io, sperando che ci facciano modulare in pace, da riprendi. Certo, non preoccuparti Claudio, si devono arrabbiare le altre persone, non tu, se no dai soddisfazione. La migliore difesa è il menefreghismo, cioè evitare le persone se non ti piacciono. Io la vedo così, in tutti i sensi. Ok, chi è rimasto qua? C'è Luca, aspetta, lo saluto. Avanti Luca del Monte. Ciao, vabbè, del Monte, sono al Monte. Della Lima Delta, sì. Allora, da Lima a Lima. Lima Lima, e Aburuttu ce n'era da quelle parti a Natale, e lui? Aburuttu, forse parliamo di bombe. Allora, io non ho sentito niente, però c'è salito mio nipote su al tappetino, c'è la guerra mondiale, hanno uscito un giornale in prima pagina, cosa hanno combinato? Dice, a parte i petardi, hanno incendiato cassonetti, hanno evoluto fumogeni, sembrava tipo quando la festa dell'Italia quando ha vinto il mondiale. Io ho trovato una di quelle bombette, ci avrà avuto una ventina di candelotti dentro. Roba è fatta la telefonata, ho parlato con Marco. Tutto a posto, almeno cerca di dargli qualche informazione così gli dà soddisfazione, dai. No, è cosa abbastanza delicata, domani me ne occupo io, vado in ufficio, vedo un po' di risolverla io, come ha fatto lui per me, no, non ti preoccupare. Sì, lo sai, meglio ricambiare, poi ci è sempre utile per qualunque cosa. Ma stai scherzando, ha fatto tanto per me, lo sai, la pratica mia era incasinata e è riuscito a fare tante cose. Non già me ne occupo io domani, glielo ho detto, domani mattina vado in ufficio, riempia principessa Iolanda, già mi arrangio io, non ti preoccupare. Avanti a chi tocca, di cosa state parlando? No, stiamo parlando di in generale, basta, che Mirko c'ha una radiolina un pochettino più performante, potrebbe arrivare anche a Milo in modo da farsi ascoltare da Muros, perché Muros dice che lo ascolta a basso, anche se Mirko riesce ad ascoltarlo a Muros, stranamente, vabbè, probabilmente perché Muros c'ha qualche watt in più. Gianni sta arrivando, gli ho detto il segnale, con questa radio cos'è? Se no, cosa hai detto Gianni? No, questo qui è il Cobra. Questo è il Serpente. Questo ne ha bisogno di lineare, questo ne ha vat. Ebbè Mirko, te l'ho detto anch'io, ma il problema di Mirko, Robe, sai qual è? Che con 757, quello che ho anche io, il mio mi tira fuori 120 watt in AM. Io lo tengo quando, quelle poche volte che lo uso intorno ai 20-30 watt, ma c'è un alimentatore a 60 A. Lui c'è un alimentatore piccolo, non lo può tirare quella radio, perché altrimenti va in protezione. Ma l'altro giorno era, mi sembra, con 20 o 25 watt, era molto forte di radio pure, perché gli ha messo il processore, all'inizio era tutto distorto, non so cosa ha regolato male, ma poi usciva benissimo, sembrava un segnale qua di città. Fai Muro. Sì, 57, che siamo qua, non c'è problema. No, la mia ne dà molto di più, ne dà 80 in AM, modulati quasi 120, c'ha dei picchi modulazioni allucinanti, anche io ho fatto aprire insomma in AM, e va molto molto bene. Vabbè, quella è nuova, lo sai che la dichiara, è nuova, ho anche il centro assistenza e me l'hanno completamente tutta revisionata, la IAESU, ed è veramente eccezionale, ho messo anche la maniglietta che non c'era, e ogni tanto la accendo, la uso, ma di solito uso il K. Adesso in questi giorni sto usando il Galaxy, ma già va bene lo stesso. Ok, avanti Robert, riprendi tu e fai girare per Gianni. Ehi, aspetta, è rientrato Mirko, ci sei? Sì, com'è il segnale di Robert? 9 più 5 arrivi da me. Ok, va bene. Vai Gianni. No, arriva bene Mirko, là. Arriva abbastanza bene. Che antenna c'hai Mirko? Io ho costruito il cosiddetto clone della Game Master lì, quella 5 ottavi lì, che era facile da costruire, però è difficile a, diciamo, a cavare però. Il cavo l'hai messo all'interno o all'esterno? Non ho capito lì. Ho detto il cavo l'hai messo all'interno dell'antenna o all'esterno? Perché c'è chi lo mette all'interno o all'esterno? Ma come faccio a spiegartelo? Diciamo che c'è lo stup lì, diciamo primo pezzo stup, secondo pezzo, diciamo sempre dove si è attaccato lo stup, qua si ha il pieno. Dove fate il radiante sopra c'è un cosiddetto condensatore, dato lo stesso coassiale, e poi le misure. E vabbè, a me mi si è troncata la Game Master, ce l'avevo proprio l'originale, mi si è troncata in due. Ah, capito, ma vabbè, no, questo è un clone, questo è fatto su una canna da pesca. Sì, in effetti forse più forte è quello il materiale di quello che mettono loro. No, ma dovrebbe durare però la Game Master, che sono antenne rose in inglese, non mi sembra, no? Magari si attacca montata male, non lo so, perché c'ha delle misure da rispettare e noi non lo sapevamo, e praticamente magari uno stile è stato messo più giù, l'altro più su, e è stato messo troppo in cima e non ha retto. Ho capito, però io ci ho messo anche un paio di tiranti per essere più sicuro. Eppure lascio la parola a voi. Ma l'hai messo sull'antenna? Sì, su tiranti di nylon. Non so se sia un bene o un male, perché con l'antenna deve flettere, capito? È fatta per flettere, e praticamente la casa va da per 160 km orari. Se è montata bene dovrebbe andare bene. Però vabbè, oramai è andata, oramai l'abbiamo dimenticata già. Sì, ma infatti la stiamo aggiustando, l'abbiamo buscato da un amico i pezzi originali, capito? Perché gli si è rovinata la bobina, non so cosa ci aveva, e ha detto che l'ha tolta e ci ha dato i pezzi originali che si sono rotti, quindi adesso si fa proprio la Game Master giusta come era prima. Ma non diciamo stronzate, 160 km orari, gasto e canta la bora di Trieste, ma a Sova c'è la Game Master a 160 km orari, la trovano a Punta Scorno. Claudio, così c'è scritto, io sto dicendo ciò che c'è scritto, diciamo, nelle istruzioni c'è scritto così, che regge 160 km orari. Sì, l'ho visto i 160 km orari, ne abbiamo visto già due spezzate, 160 km orari, ma diciamo fesserie già. Capisco che c'è scritto, ma scrivono stronzate, capito? Molte stronzate, molte, parecchie. Guarda, l'unica stronzata che non hanno scritto è forse in quella che ho io, ma ancora come vento io non l'ho testata bene. Ho visto che regge abbastanza, ma anche lì c'è scritta una fesseria dei DB. Però l'unica fesseria che non hanno scritto è che è performante in quasi tutte le bande, tanto è vero che l'ho provata in 40, in 10, in 15, in 20 metri con Gianfranco a livello amatoriale senza correttore, l'antenna funziona benissimo. Quella è l'unica stronzata che non hanno scritto, ma per il resto hanno scritto solo stronzate già, quindi è giusto per farti capire che quello che leggiamo a volte sono solo fesserie, perché 160 km di vento è tanto. È la bolla di Trieste, hai capito, 160 km/h che porta via una persona, che spazza moto dalla strada e sposta macchine, assolutamente. Massimo, quell'antenna come la Mantova, 70-80 km l'aria possono tenere di vento, ma non di più, lascia perdere già. Avanti a chi tocca. Te lo ricordi la Mantova che l'abbiamo pensata a 120 km orari? Beh, hai visto, ce l'ha fatto nulla, ce la stava portando via, ma non gli ha fatto niente già. C'è la Mantova e Mantova, stiamo parlando di alluminio. Quell'antenna, secondo me, 70-80 km orari li mantiene, ma secondo la postazione, secondo dove ce la porta via, oppure la spezza in due, come è già successo. Quindi scrivi di solo Vesserigia, l'hai detto a me, anche la mia 9 dB di guadagno, ma dove 9 dB di guadagno, anche se una 7 ottavi avrà 6-7 dB di guadagno, o già 9 dB di guadagno, ma stiamo scherzando. Vabbè, Roberto, è già passata la gazzella dei carabinieri? Sì, cacca, oggi mi sono telefonato, ormai non dovevo il telefono, cioè oggi è micidiale. E meno male mi ho cambiato la scheda telefonica, non è neanche il mio, è internazionale, eppure mi smacciappano a testi. Va bene, ok, e chi è rimasto qua? Cioè, volevo dire, ma Gianfranco che fine ha fatto? Più sentito l'abbiamo. No, io Gianfranco l'ho chiamato anche in banda amatoriale, in volume numero mi ha risposto. O sta facendo qualcosa nel come si dice, oppure non so. Perché normalmente entra, quando lo chiami oggi probabilmente è molto impegnato. Oh vabbè, che oggi stava piovendo, dovrà sistemare delle cose, delle antenne, mi ha detto l'altro giorno. Comunque da domani inizia il bel tempo, tutto il fine settimana è bello, si alzano anche le temperature di 16-17 gradi all'ombra, per cui al sole ce ne saranno anche 18-20. Vabbè, doveva piovere prima perché io l'ho lavato la macchina. Domani piazza l'antenna. Mamma mia, Nazzarino, quasi danno domani. Tutto oscurato, tutte le correnti, i pali della luce assorbiranno la corrente, un peggioramento di corrente, di luminosità, come attacca lineare da 30 kW. Tutto finito, non verrà nessuno più niente in quella zona lì, ci sarà solo Nazzarino. Cazzo, non è la mezzo pollice il palo, no? La pollice... quale da un pollice, però quello che è sotto? No, quello che è sotto, che è sopra, quello da mezzo pollice era troppo fino, è da un pollice quel palo lì, dove c'è attaccato l'antenna. Ecco, da un pollice, boh, se non mi ricordo Natali, sarà luci fini, da un pollice, io pensavo che era da mezzo pollice, mezzo tre quarti, perché un pollice è quello, un pollice e mezzo è quello di sotto, quello grande. Gli altri mi sembra che era, sì hai ragione, da un pollice, hai ragione. Scusate i calibri. Ciao Gianni, ciao Claudio. Sono entrato a chiedere un rapporto di segnale, sto provando un'antenna, grazie. Ma va, sei fracassato verbale, anche dei geniali, dunque lo beh, capito? Sempre 9:20 arrivi qua, vuoi pulire l'antenna che ti piazzi. Ok dai, no, sto provando questa master fuori dalla finestra, l'ho messa adesso. Vado a sapere appunto se stava andando, dai, ok, grazie. Vai, fra, stai andando alla grande, 9:20 radio 5. Avanti Natali, cosa stavi dicendo che avete parlato in 4? Non fa fretta. È da un pollice quel palo. Era fine di sessione, ma adesso io l'ho comprato più grosso, zingato. Domani ce lo schiaffo se fa bella giornata e piazzo l'antenna. Sì, domani fa bella giornata. Sì, qua è 9:20 già, tu sei più vicino, 9:30, ma è un ottimo segnale per Franco. Avanti, Robè. Anche a me Franco, 9:30 ha spaccato un peluttino con la palla, quella di un peluttino 9:30. Va benissimo, ok, c'è il riposo muro, avanti muro. Per sistemare, ok, grazie, dai, riprendete. Ecco. Avanti Fabrizio. Ciao Roberto, ciao Claudio. Ascolta, ho chiuso questo apparecchio. Come stiamo andando? Esce? Sì, funziona? Da me è una canonata Fabrizio, come ti ho già detto. 9:20 radio Super 5. Ciao Fabrizio, tanti auguri. Tanti auguri anche a te Gianni. Arrivi bene, tranquillo, va benissimo. Peccato, cioè, mi mancano di questa radio i tastini, ne ho due, non hanno stesso colore, i tre tastini del, che cos'era? Su First Starter 1600, che poi è la stessa scheda del Pluto più o meno, P3006, però che è nuova anche esteticamente, però mancano questi tasti. Allora, qualcuno ne ha qualcuno del volume Mickey Gain, fine corsa. Vabbè, mandami le foto, ho la foto di come sono i pomellini, che c'ho una bustina, io qualcosa c'è, però mi devi mandare la foto. Adesso ti mando la foto, perché ne ho anche io parecchi, però quelli lì mi mancano. Provo a mandarmi la foto, qualcosa io c'ho, vediamo se gli agganci sono quelli. Ora te li mando. Ehi, a Fabio manda anche qualcosa a me, Mario, se ce n'è uno lui o uno io, da due ne fai, ti fai la serie completa. Comunque, Radio 5, molto forte, chiara, segnale 9+40 e superi pura. Ok. Vediamo come arrivi in lontananza. Muroso, vediamo come hai ascoltato a Fabrizio. Sì, K, QSL, grazie per il mic. Roberto, sì, K, buonasera. Fabrizio, ben sentito. Buon Natale anche a te. Sì, arrivi allora. Sentiamo l'Onze, Radio 5, qua Muros. Fabrizio, sì. Mi ha fatto piacere. Sì, io per il momento proprio devo salutare, che mi devo allontanare dall'apparato per una cosetta da limite. Se io voglio riprendo dopo. Per il momento faccio il QRT. Saluto a te, Roberto, a Fabrizio, a Claudio, tutta la ruota, Gianluca Turino, non so che c'è altro, ma è pure il definitivo per me, poi se ne ho voglia, che sentiamo più tardi. Ciao a tutti, buona serata a tutti, ti prendi Sparviero. Capo del Rosmetro, va bene, ciao Claudio, un saluto a casa, a tutti, e già ci aggiorniamo, ci sentiamo, cambio per Gianni a girare per i saluti. Cappa, dai, ciao Claudio, volevo chiederti di Ottavio come sta. Cappa, Gianni, tutto a posto, sono entrato stasera, tutto bene, sì, grazie a Dio, sì, però si deve ancora operare, capito, ancora non è finita con la, come si chiama, capito, si deve operare, rientrato a casa, capito, gli ho dato la cura da fare a casa, è tutto bene, da tutto bene. Perché dire, no, per il momento io vi saluto a tutti e se al limite la se ci siete riprendo più tardi, da se ne ho voglia, da saluto anche gli eventuali SWL se ce ne sono e anche al portantista di prima, io passo in quello TSK, faccio a tutti, buona serata, riprendi Roberto. Sì, a Claudio riprendo io, dai. Buon tutto, dai, salutami tutti in casa e fai gli auguri a Ottavio da parte mia. Ok, vediamo Mirko se c'è ancora per il saluto, avanti Mirko. Sì, buonasera di nuovo Claudio, Vince, mi sento adesso, non lo so, abbiamo cambiato tutta la parola. Ci hai ascoltato amico Claudio? Sì, passo, beh, però non riesco a capire quello che dice stasera, non so, magari può essere il mio apparato che tirchio in ricezione forse, perché avevo già modulato con Mirko e comunque ti super saluto Mirko se mi stai ascoltando, dai, io per adesso passo in QRT, dai, ci sentiamo alle prossimine, ciao a tutti. Eia, vai Fabrizio. Sì, ti ho girato quella roba anche a Claudio, vediamo un attimino, me ne mancano tre, perché quelli che c'è io ne ho due rossi mezzo rovinati, ma non vanno bene, e siccome l'apparecchio che può andare bene magari può servire a qualcuno, adesso voglio mettere a fuoco anche con qualche apparecchio CB che avevo fermo, qualcuno recuperati, con poi io sai che compro sempre un po' di apparecchi vecchi, e quindi con uno, con questo ne ho fatto uno, poi con l'altro l'avevo riparato, perché poi di queste schede ne capitano parecchi, quindi vai, trovi i componenti, e quindi sono messo questo a posto, lo sto controllando perché non riceveva e non trasmetteva. Ma Pompon non è un medico, i pezzi di prova a chiedere a lui, magari ce li ha Antonello Alessio, sicuramente c'ha qualche cosa, perché è di amore, c'è la mano che abbia buttato tutto, che abbia fatto pulizia. È un peccato, perché diciamo che per qua un baracchino carino, mandagli un messaggio, roba che tu c'hai il, o anche Claudio, che ci avete il numero di Pompugno, e gli mandi quelle foto, a vedere se ne ha tre di quei tattini, quello del volume Mickey Gain e il fine corsa. No, io non ce l'ho Fabri, non neanche lo conosco, ci conosciamo solo qua in radio. C'è la Claudio, mandaglielo tu Claudio. Ma Fabri, quanti sono i pomellini? Due o tre? Sono tre. Ne hai mandato, ce ne sono rosso e nero, ma l'originale è nero naturalmente. No, sono cromati e quelli sono di sempre di un'altra serie come questa, però erano neri e rossi i tasti. Ho fatto tante serie, siccome di questi ne ho fatto arrivare tre di queste carcasse, e l'altra volta ne avevo fatto arrivare una perché mi serviva come ricambio, quindi ho riparato questo e poi ho so che eravamo demolita, ma li metto via, poi quando mi arriva qualche baracchina alle volte recupero una parte, una cosa, componenti, insomma, per prove, alla fine molte volte riesco a rimetterli su. Questa erano un po' di apparecchi in un laboratorio che per loro erano reparabili, dai. Fabri? Dimmi qua. Allora io cromanti ne ho due, non sono messi bene, però si possono verniciare. E sono simili, molto simili a quello lì, adesso ti mando la foto. Mandami la foto, anche io ne ho due, ma vabbè, mandami la foto, al limite le cerco di riverniciare anche questi. Ne ho due questi e uno lì, vediamo un po', almeno uno. Vediamo un po' con pugno, non è che magari ne ha qualcuno, no? Lui c'ha sempre pezzi di ricambio di quelle radio lì, capito? Può darsi che abbia qualcosa, non lo so, no, questi sono uguali, sono cromati, però adesso vedo se c'è qualche altra cosa di qualche altra radio dismessa, ma mi sembra un po' impossibile, vediamo comunque, due ce li ho cromati così, però non sono messi bene, ma tu già riesci a fare il tappino nero, ad esempio, e darle appena di cromatura, vero? Mandami una foto. Non so se vanno bene. Delle? Quelli del 2009, i fumetti. Credo che vanno bene, adesso te li rigiro, sono tutti uguali, il 2009, tutti la stessa scheda, ma adesso te li rigiro. Allora, aspetta che controllo e ti do la risposta. Quelli del 2009 già sono precisi identici a quello lì. Questi non sono del 2009, ma devono essere una radio simile perché sono cromati. Lo stesso, piccolini cromati. Però sono messi male, no? Non sono messi bene. Fabri, una cosa. Dimmi. Ma il calzino è circolare, tondo o schiacciato rettangolare, come quello che mi ha dato nella foto? È uguale a quello della foto, quelli sono, vanno bene lo stesso, ma sono rossi. Il colore è sbagliato. Guarda se c'ho qualcosa in mezzo, ne ho sempre conservato di questi pomellini, vediamo un pochettino. Se ce l'ho assolutamente sono già da parte per te, non ti preoccupare. Io ne ho una marea perché li conservo, anche del Galaxy Base avevo recuperato un sacco di pomelli, c'ho potenziometri, come sempre compro un sacco di roba, altre volte anche questo per esempio l'ho riparato così, anche il finale ce l'avevo perché e quindi molte volte li ripari perché per non buttarli molte volte ci metti in mano tanto. Vabbè, aspetta che faccio, devo fare una cosa, aspetta. Ma più che altro ritenevo per roba d'epoca, radio d'epoca e cosa del genere, però in mezzo c'erano anche altre cose, quello Bracco, Giovanni Bracco, l'animatore, quello me l'aveva portato una scatola di roba, vado di lì se c'è qualcosa. Guarda, vabbè, sono in ascolto un attimino, va. C'è un altro Claudio? Vabbè, sto guardando dentro l'armadio, cosa c'ho? No, ti mando una foto di una cosa. Manda. Fabri, dimmi già. C'ho tutta la serie del 2009, sono nuovi, mai usati, ce li ho tutti. C'è tutta la serie. Ce li hai, diciamo, i tre pomellini, proprio quelli che ti ho mandato, quelli piccolini, qua fa il volume, il Mickey Gain e il fine corsa del coso, come si chiama? Aiutami già, del tuner. Allora sì, dovrebbero essere così, dai. Ci sono tutti i pomellini, ci sono quelli fine corsa, tutto quanto c'è, dai. C'è anche quello per girare i canali, tutto, la serie completa. E come mai? Ce li ho perché praticamente era un affare che ho fatto, avevo preso tutti i pezzi nuovi di questo qua che aveva, c'era bruciato l'apparecchio e ce l'aveva da poco tempo, me li ha venduti per frontiero, mi ha venduto tutto, mi ha dato coperti, tutto ciò. Ce li hai quei tre, te li compro io. Cosa mi compri? Ma finila, già lo sai che con te è un arrangio. Vieni a prenderti di Fabri che ce li ho, là, non c'è problema, te li do. Vabbè, come sono in giro ti faccio uno squillo, là. Sì, va bene. Ciao, ci rimetteremo tra la parte. Grazie. E quindi Fabri, te li da Gianni? Sì, me li da Gianni, perdi un peccato, è in ottima condizione estetica, quei tre tanti torna a posto, capito? Gli serve a qualcuno, adesso c'ho questo. quest'altro che fu, va bene, l'FM500S, te lo ricordi? Ehi, l'ho avuto io, ce l'ho in concessione. Ce l'avevo, il 500S in concessione, la KB23. E funziona bene, amico, il baracchino. Caspita, meglio del 48 funziona. Infatti l'unica cosa che di questo adesso l'ho recuperato, forse ci mancava il connettore di alimentazione e erano stati collegati i cavi diretti. Adesso se io riesco gli metto il connettore su originale che ce l'ho qua, l'ho tolto quello del cuore, e così torna a posto. Magari può servire anche a coso mia, quanti si chiama? Già mi è capito. Infatti lui ce l'ha, però penso che non è che esca molto bene, capito? Va bene, allora è risolto con Gianni, e questi, se vuoi, te li do, ma ti ripeto, non sono messi bene, sono un po' graffiatini, ma tu già t'appenti, già riesci a farli, perché sicuramente sono di quella radio lì, perché sono cromati, non sono molto, molto grandi, sono più o meno come quelli del 430, una cosettina così piccolina, capito? Va bene, Robè. Sì, amico, adesso che c'è Fabrizio, una domanda su Monte Raso. Dimmi. Ma hanno cambiato i tunnel di quel monte? Guarda, ma non me ne chiede, io non ne so, vado lì, modifico, faccio, ogni volta cambiano tutto, non ne so, io vado, mi arrampico, taro, faccio, però non mi chiedete niente, non ne so di punti. Guarda Giudizio, Fabrizio tutto le perché, ma non è che ci hanno cambiato secco, devi chiedere a Domenico, quando lo senti sull'RST Alfa, vediamo se c'è, non c'è, sull'RST Alfa, senti a Domenico di Amen, glielo chiedi, e lui quelle cose le sa, Fabrizio fa le manutenzioni e fa il gatto delle nevi lì, capito? No, ma perché sapevo che Fabrizio era andato a fare le manutenzioni, ho detto Mario, è lui che le imposta i valori. E ma li modifica ogni volta, perché quello lo fa, la regola sempre lo fa Domenico, toglie, mette, già ne va di Bogoga. Perché l'ho scaricato oggi, quelli da aggiornato al 22 di dicembre, e il tono è a 123. Vai a cercare internet, e la ventra, su di lì. Chi è che ha parlato? Avanti. Buonasera, Radino, 875, non ho cambiato. Ti ha giudito, Robè, tu sei sempre un chiccio internet, ho detto che i ponti, quando c'è qualche variazione, noi lo sappiamo, se cambiano un tono, noi lo sappiamo. Se io ti ho detto che 88.5, che quello 430-100 dismesso, che quell'altro non funziona, i ponti attivi te li ho scritti, ascolta quello che ti ho detto io, futtidini di stampare cose da internet che non servono a niente, cosa ne sa internet dei cacchi della sezione aria di Sassari o dei cacchi di Fannino o dei cacchi miei, cosa ne sa internet? Fannino Pantera, buonasera e buonasera. Sta funzionando regolarmente il ponte. Quale ponte? R0. Certo funziona regolarmente R0, 88.5, ma no, 120 punto tolto da internet. Il tono è 88.5, basta, finito. Funziona perfettamente. Capito mia? Ciao Vanni, buonasera, auguri anche a te di buone feste. Io faccio girare per Gianni doppio room e dopodiché rimango un attimo in QRV. Sì, dai, ho ripreso adesso perché mi è venuta adesso in mente delle manopole. Non ci stavo manco pensando, poi mi sono ricordato che ce li avevo conservati qui pizzi. E sono andato a controllare, non sa che mi sbagliassi, da che l'avessi dato, invece ce li ho ancora. No, già io non mi ricordavo i pezzi dell'Aran 48, se no li avrei detto subito a Fabrizio che ce li avevi tu, capito? Ci mancherebbe altro, io quello che posso fare per lui, non ci sono problemi. Qualcosa c'ho, ma è tutta roba vecchia, capito? Mi ricordavo che tu avevi anche tutta la serie, tutti i completi, tutte le cose dell'Aran 48, però non sapevo che avevi anche quelli del 3009. Va bene, meglio così. già è tutto sotto controllo. Avanti roba è mia Gianfranco. Infatti l'ho cercato, prima di tutto saluto a Vannino che l'ho sentito adesso di sfuggita, ciao ben sentito, e poi Gianfranco, rilancio a Gianfranco, che abbiamo cercato prima, ho detto questo c'è perso sotto qualche cunicolo qualcosa, vai Gianfranco. No, sono da altre parti, sto ascoltando altra roba, è funzionante, c'era anche Domenico sull'R0, saluto a tutti, me ne ripasso dopo o prima. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao, dopo ci sentiamo da altre parti, dai. Ok, facciamo riprendere Vannino, che è quello più lontano. Avanti Vannino. Come dicevo prima, mi stavo solo ascoltando perché sto facendo altro. Va bene, comunque già perso lo stesso perché non arrivo a 4. Vabbè dai, ve li saluto tutti ancora, buon effetto a tutti. E poi mi cari a pagare perché sei uno di quei più forti che attualmente non sta, però comunque ancora a 4.8 ce l'ha. Andare, si è abbassato il parito, non è certo. Sì, ok, riprendete il micro e niente, vi ascolto ancora, ne ho un'altra 20 minuti, sto aggiornando un tonto. Ehi, va bene Vanni, ma io sono andato col Galaxy, è stato un ecco 15 watt, 18 modulati, dai, va bene, ti ascolto magnificamente, non ci sono problemi. Ok, ciao anche a Gianfranco, buonasera, ben ascoltato, anche a lui, e cordialità. E ricambio per Gianni, allora, non so se poi ci è rimasto qualche domanda, avanti Gianni. Intanto saluto a Vannino, gli faccio gli auguri, ciao Vannino, ben sentito, avanti. Sì, certo, c'è anche più forte di Crani, mai, una volta, ma adesso, aspetto Gravini, ciao, comunque ben ascoltati tutti. Ci mancherebbe altro che passasse già nella zona di Sosso, ci mancherebbe, caro Vannino, vabbè. Siete di fronte Gianni per quella zona lì, sfascia il culo e grilli, io ancora devo mettermi a posto con l'antenna, poi quando metterò tutto a posto vuol dire faremo le prove, ma non ha importanza. Il cambio per Gianfranco, vediamo se vogliamo, se vuole riprendere o se sta ascoltando da altre parti. No, dice stava facendo un'altra roba. Comunque Vanino qua arriva a 9, 5-9. Claudio, quanto ti arriva a te? A me arriva 5-8. Però devo dire che Franco probabilmente c'ha una situazione più favorevole, arriva a 9.15 e Franco di Sosso. Non hai idea dove abita Franco lui. Franco qua che io sono praticamente dall'altra parte, non lo vedo perché l'antenna è molto bassa questa, eh. Attenzione, io sto andando con l'antenna da 2 metri da terra, 2 metri da terra. Quando poi d'estate questa antenna va a 8 metri, allora vuol dire che mi darete la risposta, però grazie a Dio mi difendo molto molto bene. Non mi posso lamentare, l'importante è che ci ascoltiamo, ascolto tutti e tutti mi ascoltano. Quindi Gianfranco non riprende, chi ci è rimasto oltre a Gianni? C'era un attimino Luca, poi è entrato Natalino, non lo so, vediamo se Natalino c'è ancora. Natalino ci sei? Nulla. Luca, c'è qualche donato che vuole entrare, avanti. Io non sento nessuno, tenete conto io non abito a Sassari, sono 4 km fuori da Sassari, in periferia alta, però mi devo ancora organizzare con le antenne, piano piano. Con calma caro Vannino, con calma, chi va piano va sano e va lontano, ma vi detto maggio di buoni tradici, va fammi intendere, già va bene così. Comunque qua sei, segnale 8, radio super 5, va benissimo Vannino. Sono contento, ha guadagnato me. Nulla hai guadagnato. Mi chiamo il panettone, là. No, non riesco a prendere più panettone. Ha girato troppo il panettone, Vanni. Allora basta. No, Santiago 8, Radio 5 arriva, non c'è problema. Io sto andando con 15 watt modulati. P&P con il Galaxy Saturno, ecco. Aspetta da Vanino come arrivo io, dalle sue coordinate, come arriva dalle tue parti Vanino? Arrivi in segnale 3, radio con Bastina, con Frontatari a Gianni. Non è prepotente come la loro, anche se il segnale loro arrivano un po' appena più alto, ma comunque siamo lì. di più normale. Chiaro, se io avrei abitato Porto Franco, guai, lo dico io, guai, Arrivo Santiago 3 a Sozzo, mi confermi Gianni Vanni? Ok, Claudio ti arriva a 9, quanto è detto? No, già 9, non so quanto arrivo io. Però ti ricordo che io sono aperto per Sozzo, ma non lo vedo, l'antenna non lo vede Sozzo perché è molto bassa. È 2 metri attaccata al muro, devo tirare su almeno 6-7 metri per andare bene per Sozzo, però non lo so, sicuramente arrivo qualcosa in più di te. Quanto arrivo io in più di Roberto Vanni? Io sono con 15 watt, così 80 watt. Sono col baracchino, neanche col K, sono col baracchino, col Galaxy Saturnel, col microfono interno più 3B. E boh, se no questi baracchini ci faranno boom. No, va bene, va bene. Più che bene, tu arrivi un pochino più alto, Adesso guardando bene sei tra le 6 e le 7, con picchi a 8, quindi va bene. Va bene signori, io però vi saluto perché sono le 8, esattamente 19.55 e io vado a preparare, me ne vado un po' a far compagnia a mia moglie. Ciao Roberto, ciao Vanino, Claudio Di Muro se c'è ancora, Mirko, Gianni Doppio Rum, Fabrizio, un saluto circolare a tutti, Natalino e così via, Franco, California, insomma un saluto circolare a tutti, per me QRT, a domani, ciao ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo con QRT, dai. Ci sentiamo domani, anche io chiudo, saluto tutti cordialmente, devo portare il cane, ha fatto bene a dirlo Claudio, così almeno mi sono reso conto. Ciao a tutti, grazie per il question. Ciao Claudio, anche a... Siamo cari intorno al 7, più o meno, già mi sento quasi. Andare, vado, divertitevi ancora, il nostro... Ciao Vanni, ci sentiamo. Sì, riprendo anche io stavo per chiudere, poi magari mi sposto da altre parti più tardi, adesso vado a mangiare anche io. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Fabrizio, ciao Vannino e tutti gli eventuali SWL. QRT da parte mia, ciao. Ciao, ci sentiamo. Buona serata a tutti. E beh, tu? Uè, ciao, buonasera. E beh, mi preparando a me come la doccia, so come. Io mi sono appena arrivato, io. In realtà sono sui mezzi, sul tram, ci vuole la FFP2. Tu quanti volte li tira? Ah, che non sei ammazza, Io quando è arrivato, l'ho visto, mi ha detto, ci vuole con la mascherina lì. E ho detto, come me lo dici adesso, ci vuole con la mascherina? Guarda, infatti può ruggiare la canna, l'abbia detto. Però poi mi coglione. Già, allucinante, cara. Adesso buco in del buco di chifo. Ma, che fusuri. Proprio a ridare. Sto tutto sudato, insomma. Tipo c'è un caldo, si trova del tram. Vado a casa, la palestra. Uscirà. Mi buco tutti, no? Sasa, c'ho qualche disturbino, chissà che marazzurci è. Ah, dai, sa il condizionatore. Il condizionatore, che mi accendi? O è l'altro? Ma so se sono che è l'altro il buon fuoco. Ma tu in quella casa il condizionatore c'hai? Sì, ma non li accendo. Poi cazzo arriva a 6 milioni di euro la luce. Andiamo a mare che si venga a cuore, cazzo. Ma ci paga la luce in maede. Non c'è nessuno, aspetta un attimo, arrivo subito anche tu, che devo andare in bar. Capo, io vado a fermare la luce, ci sentiamo dopo. Ehi, Romani. Ehi, chi è? Romane. Ecco chi è. Quando io schiaccio la portante, mi devi riconoscere subito, non è chi è. Vabbè, ma te l'ho riconosciuto subito. vai. Ciao Anto, vai a farti la doccia, vai. Vai, bucati di ciocchiaco di fava, vai. Sentiamo dopo, ciao a tutti. Ehi, allora mi muovo un po' col fiacco di fava. Gappa. Veramente? Yeah. No, noi compriamo pane qua, neanche pesci abbiamo, ciao. Sardegna, tutta grazie, fichi d'India. Ora. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola. Hola. Che la. Chucu. Buonasera a tutti e auguri a tutti, ciao. Senza memoria, senza niente. Infatti, è un macello a memorizzare qua. Ma non ti conviene, cosa ti dà fuzzi, non te ne frega niente. Ti fai tutti i 40 canali della 27, dopodiché prendi, cambi banda e vai da un'altra parte. E giri, capito, finché non senti gente. E K. Speriamo che domani faccia bella giornata, ma ho comprato il palo oggi. Domani, lascia perdere. È umido, non ti conviene, lascia perdere. Devo pigliarmi un palo anch'io adesso, devo pigliarmi. Per poter piazzare la VHF, la X500, quindi figurati tu. Aspetto un po' e poi lo installo. Adesso vediamo. Per adesso stava piovendo e c'è l'antenna piena d'acqua. C'è la nebbia, c'è, figurati. Sono sceso giù da lì, io. E c'è la nebbia, aspetta un secondo il telefono, due minuti.